se ti vuoi fidare davvero di me, allo fino in fondo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, fino in fondo. Fatti più vicina, regalami il tuo sogno, regalami il tuo sogno, oh, oh, lo custodirò e lo conserverò. Bisogno, regalami il tuo sogno, guardami negli occhi, desiderai. Te lo custodirò.